Radio 24 Reportage. Dislessia a scuola, la legge ignorata, di Maria Piera Ceci. Ciao, dico a te, mi chiamo Andrea, tu sei dislessico? Sì, vero? Adesso ti dirò come mi sento io. Mi sento bene, anche se ho questi disturbi, ma chissene. Io sono speciale, così come sono. Anche Einstein era come me, ma è sempre stato un genio, no? Prima ho avuto difficoltà, poi è diventato un genio. Quindi anche tu e io possiamo diventare come lui a scuola. È come il Monte Calvario. Ah, dimenticavo questa cosa. Io sono aiutato dalle mie maestre e dalla mia logopedista, che mi vuole tanto bene. In questi anni ho studiato molto utilizzando i metodi compensativi, il computer con la sintesi vocale e la calcolatrice. Quindi con tanto sacrificio si può migliorare. Mi aspetta a settembre una nuova avventura, vado in prima media. Spero che sia i professori che i compagni mi diano il supporto per affrontare al meglio questi 3 anni. Io comunque mi ritengo un ragazzo come tutti gli altri e spero che anche tutti i ragazzi dislessici di questo mondo possano diventare ciò che desiderano senza alcun limite. Spero che questo mio piccolo messaggio possa aiutare e incoraggiare tutti i ragazzi come me. Così Andrea, 11 anni, si racconta nel libro Pensami al contrario. Andrea è uno dei tantissimi dislessici, disgrafici, discalculici, disortografici presenti nella nostra scuola. Sono quegli studenti che una volta venivano scambiati per distratti e svogliati, nella migliore delle ipotesi, per poco intelligenti, nella peggiore. E non hanno avuto vita facile. Da qualche anno invece le loro difficoltà hanno un nome, DSA, disturbi specifici dell'apprendimento. E gli studenti con DSA sono tutelati dalla legge 170, che consente loro di avvalersi di strumenti compensativi, calcolatrici e quant'altro, e di percorsi facilitati. Tutto bene dunque a scuola? Mica tanto, dipende dalle insegnanti che si incontrano, dalla loro formazione e dalla loro sensibilità. Un po' un ternallotto, insomma. Come ci racconta Anna Paris, mamma dislessica di un ragazzo dislessico e coautrice del libro da cui abbiamo tratto le parole di Andrea. Abbiamo molti docenti bravissimi, preparatissimi, fanno il corso di formazione, però abbiamo altrettanti docenti che non vogliono sapere del rispetto della legge 170. Ancora oggi, a distanza di tutti questi anni dalla legge, maggior parte, vabbè, voglio esagerare, dico la maggior parte dei docenti non rispettano la legge 170, non ne vogliono proprio sapere. Noi abbiamo fatto una petizione che abbiamo consegnato l'anno scorso, appunto per renderla sanzionabile, perché a sto punto se io parcheggio in divieto di sosta, so che sto commettendo un'infrazione, non sto rispettando una legge, e il docente lo sa che sta commettendo un'infrazione e non sta rispettando la legge, perché non viene punito? Cioè io non dico sanzionabile in modo pecuniario, magari sanzionabile nel senso di avere delle lettere di richiamo, come succede nel privato. Ma poi perché bisogna continuamente lottare per far rispettare una legge che c'è? Oltretutto i genitori che hanno le possibilità economiche fanno anche ricorsi, ma sono dispendiosi, e poi comunque ricorrere al TAR non è che la questione si risolve l'oggi col domani, si va avanti comunque per dei mesi se non anni. E intanto le frustrazioni, l'autostima dei ragazzi, dei bambini comunque viene abbattuta. Questi piccoli esserini che devono crescere crescono già sentendosi stupidi, vedendo i genitori lottare, sentirsi poi alla fine diversi, perché ci fanno sentire diversi. Sentirsi diversi di fronte ad insegnanti che non vogliono riconoscere le difficoltà dovute ai disturbi specifici dell'apprendimento, con insegnanti che fanno davvero molti guai sulla crescita di questi bambini. Come sa bene la dottoressa Silvia Penati, che gestisce in Lombardia i CPP, Centri Psicopedagogici del Gruppo Bracco, l'ultimo centro nato proprio quest'anno a Lambrate. Un servizio gratuito, quello offerto in queste strutture, per prevenire e ridurre il disagio giovanile, bullismo compreso, e per aiutare chi ha difficoltà di apprendimento. Abbiamo delle insegnanti con una certa sensibilità e flessibilità. Altre insegnanti sono invece molto rigide. Le faccio un esempio. Molti bambini con DSA hanno bisogno di mappe concettuali, liste di parole chiave e schemi per poter ricostruire il discorso. Questa cosa purtroppo non viene sempre realizzata, perché in particolare le insegnanti durante le verifiche e durante le interrogazioni loro dicono: no, non puoi tenere davanti agli occhi la mappa perché se no copi. Allora lei capisce che la mamma, che magari il giorno prima è stata un'ora o due ore a spiegare al bambino, a leggere, a sottolineare, a fare i disegni col pennarelli colorati, e poi il bambino arriva all'interrogazione e la maestra gli dice no, la mappa lasciala al posto. Questo bambino vede crollare, a parte tutto il lavoro del giorno prima, ma anche una possibilità un po' di riscatto, cioè di riportare una buona votazione e di aumentare il proprio livello di autostima. In che cosa la legge manca, visto che poi non tutti gli ambienti sono consoni a questi bambini e non tutti gli insegnanti si adeguano a quali sono le disposizioni di legge? Guardi, io ho notato che molto dipende proprio anche dalla personalità dell'insegnante singolo. Ci sono degli insegnanti che ancora prima di inviare i bambini per la diagnosi, loro hanno già captato le difficoltà dei bambini e provvedono immediatamente ad aiutarli. Poniamo che la diagnosi si fa fine seconda elementare, inizio terza. Ci sono però delle insegnanti che già a metà anno della prima elementare vedono che il bambino è a rischio e corrono ai ripari. Ecco, ci sono delle insegnanti che tassativamente dicono no, il bambino deve imparare i quattro caratteri, quindi stampato maiuscolo, stampato minuscolo, corsivo maiuscolo e minuscolo. Questo va proprio ad appesantire il bambino e anche dal punto di vista psicologico creare proprio una specie di opposizione nei confronti della scuola. Io credo che molto dipenda proprio dalla sensibilità degli insegnanti. Altri insegnanti, nonostante abbiano la relazione con tutti i punti dettagliatamente scritti uno sotto l'altro, ancora arrivano a dire tu non puoi avere il 30% di tempo in più perché ti ho dato due domande di meno. Vorrei che la scrittura fosse leggera come una piuma, che semplice fosse l'ortografia ed avere una bella calligrafia. Vorrei che i numeri non fossero dispettosi, ma loro danzano giocosi e il 63 agli occhi miei diventa un 36. Non so fare le divisioni e le altre operazioni, ma a voi chi ve lo dice, datemi una calcolatrice. Vorrei leggere esattamente, riconoscere le lettere velocemente, ma tutto si confonde nella mia mente. Voi siete capaci di leggere e imparare, a me serve la sintesi vocale. Vi chiedete tutto questo cosa sia? Non è colpa mia, si chiama dislessia. Così Manuela, ancora dal libro Pensami al contrario. Insomma, l'abbiamo sentito, la legge c'è perché i dislessici dispongano degli strumenti di cui hanno bisogno a scuola, ma qualcosa non funziona. Cosa fare? Franco Botticelli, presidente dell'AID, l'Associazione Italiana Dislessia. Intanto rendere concreta la legge, cioè nel senso che la legge sancisce i diritti e quindi che questi diritti vengano rispettati. Fare la formazione degli insegnanti. Adesso tanti chiedono sanzioni, no? Nei confronti degli insegnanti che non rispettano il piano didattico personalizzato e comunque non fanno usufruire ai ragazzi degli strumenti compensativi. Però la sanzione sì, può essere un qualcosa perché non lasci la possibilità impunito chi non vuole ascoltare, ma il discorso principale è che veramente tutti conosciamo questo problema e lo possiamo affrontare. Come l'insegnante a chi ha gli occhiali non glieli fa togliere, lo stesso identico discorso deve essere fatto per l'utilizzo di strumenti compensativi, cioè quindi l'utilizzo del computer, della calcolatrice, dei tempi prolungati. L'importante è saperlo, conoscere questo problema, lo ripeterò fino all'infinito, guarda, perché è l'unico modo per poter sconfiggere l'ignoranza e le difficoltà che vengono create ai ragazzi. Ma i ragazzi poi ad un certo punto diventano grandi. Finita fra tante difficoltà la scuola, c'è il mondo del lavoro che le aspetta, dove le difficoltà non spariscono d'incanto. Presentata di recente una legge che consentirebbe ai dislessici di affrontare i concorsi pubblici con una prova orale anziché iscritta. Nelle imprese poi verrebbe istituita una figura di riferimento, una sorta di tutor, che individui progetti personalizzati e compiti più adatti per il lavoratore dislessico. A presentare la proposta la deputata Laura Coccia del PD. Un dislessico che cerca lavoro può, qualora ne sentisse la necessità, rivolgersi a queste figure che saranno previste in alcune aziende, che ovviamente mano a mano dovranno formare e adeguarsi, è semplicemente un qualcosa in più, ma non è qualcosa di obbligatorio. Un'altra cosa non obbligatoria ma facoltativa è la possibilità, nel caso di esami, che non siano esami scolastici, perché quello era già previsto, ma penso ad esempio al conseguimento della patente, la possibilità, o ad esempio l'esame nautico, la possibilità di svolgere una prova orale anziché scritta. Leggevo che avete pensato a, come dire, intervenire anche sull'adulto dislessico, perché a scuola invece c'è una buona legge e va tutto bene. Anche su questo alcune associazioni dicono va tutto bene sulla carta, però poi in realtà a scuola ancora la sensibilità non c'è e i ragazzini dislessici vivono una vita di inferno. Lei su questo come si sente di rispondere? Ma noi come Parlamento, come legislatori, abbiamo il compito di scrivere le leggi, quindi la legge 170 già tutela appunto il percorso scolastico. Sul lavoro è totalmente assente un qualsiasi tipo di tutela e quindi per il momento ci siamo concentrati su quello, cioè sulla parte che era totalmente mancante. Per quanto riguarda l'attuazione, il monitoraggio della 170, chiaramente faremo tutti i passi e le verifiche necessarie, anche con il coinvolgimento magari del Ministero della Pubblica Istruzione. L'Associazione Italiana Dislessia ha contribuito alla scrittura della proposta di legge, che però non tutti i dislessici accolgono con favore. Anna Paris. No, perché a quel punto verremo discriminati, nel senso magari non potremmo fare magari dei lavori adatti a noi, ci daremo dei lavori un po' più umili, non avremo la possibilità di fare un determinato tipo di lavoro. L'azienda privata non è come il pubblico, l'azienda privata comunque ha delle esigenze ben diverse. Andando a dire a un'azienda sono dislessica e mi devi trattare in questa maniera, l'azienda naturalmente indietreggia un attimino e dice beh, perché devo prendere un dislessico se poi mi trovo delle problematiche. Ho capito. E la scelta deve essere data a noi, decidere di doverlo dire o no se siamo dislessici, perché magari vogliamo far vedere le nostre capacità a prescindere dalla nostra caratteristica. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.